Allora, ma questo qua va in mezzo e basta. Solo la sera si calma, guarda, solo la sera. Allora, presenta, guarda. Sono impressionata, no? Quindi so vero che bisogna venire proprio, arrivi i segnaloni, capito? Qui mi arrivano alti. Arrivano quasi ai vostri segnali di Sassari. Lasciate un po' di spazio, mi è sembrato di sentire qualcuno che chiama Antonello, mi è sembrato Gigi Vulcano, avanti. Ho sentito, Paolo, buongiorno, avanti. Ah, oh, Mondino D'Alghero, sono tu di ben sentito. Ogni tanto mi ha affacciato, visto che si tengo la Bibbia di Alghero. Io no, se non te lo do, questo mi... Sì, vabbè, penso che ti ascolti anche... Sono avanti, avanti, tu dici, lo ascolti a Mondino. Sì, già lo ascolto, non so se lui ascolta a me. Buongiorno Mondi. Ciao Roger. Luca, tu mi ascolti meglio adesso? No, sempre lo stesso, ho messo un pochettino più in radio, non so se stai... se stai alzando la voce o che cosa, ti ho ascoltato un po' meglio di radio. No, io non lo sento a questo Mondino di Alghero. Sì, yeah. Se lui ascolta a me, prova a farmi da Ponte o Antonè, guarda a vedere se mi ascolta. Mondi, mi ascolti a Gianluca? Sono là, grazie, ti mando avanti Antonio Mendelese. Allora che è Antonio. Ui, scelta di Alessio. Ciao Mondino, ben sentita, non so se riesci a tirarmi fuori, perché sono pio pio oggi. Ha ricambiato al 100, 7351, ci sentiamo alle prossime. Riprendi Torino. Ciao Mondi. Alle prossime se coincide. Vai Luca! Ehi, adesso non so se mi ascoltava. Ciao Mondino, se tu mi stai ascoltando, non ho sentito però se mi ascoltava, appunto ci arrivavo lì da quelle parti almeno. Comunque se mi stai ascoltando, ben sentito gli altri. Faccio sentire da me. Da Antonella magari mi dà il rapporto. Buona domenica e buon tutto. Avanti Antonella. Ma se glielo chiedo se ti sentiva. Mondi, lo sentire da Luca adesso che sta usando una tablezza. Ti ha sparito. Ho cambiato radio anche adesso, con questa qui riuscivo a sentirlo, invece nulla. QRM boh. Va bene. Andrà bene, andrà bene. Ripigliatela Tonino. Come faccio? Adesso ti ascolto meglio lui. Ecco, anch'io ti ascolto meglio di radio, il segnale però è sempre lo stesso, va benissimo, allora non farò questa, vai. Va bene, va bene. Brava Roger, riprendi con Antonio Croce. Troppa di Roger, insomma, a Torello stiamo giocando. Non avete voglia di uscire oggi, andare a raccogliere lumacchine, che adesso c'è la riunione al quadrato, io. Preparati di stivare e andiamo, io. Andiamo qui oggi. Siete sovramodulati. Certo, mettiti di stivare e tu e andiamo, io. A Lumaccoli, non a Lumacchini. Quasi quasi. Lumacchini viene un bel. Lumaccoli pochi insieme. Pizzo di Gianna Cuccoido. Gianlu, te lo ricordi quando si facevano le riunioni a prove? Non ammetti. Come se non mi lamento? No, ma il più bello era quando andavo via me la sede. Io vabbè, non frequentavo qualche volta perché mi sembra che neanche la radio ci avesse, però non viaggio a me perché conoscevo Francesco TM, a Fernando Azzole, e c'era la sede lì dove c'era la Shell, ti ricordi? Ehi, io me lo ricordo. Per carità, io mi ricordo sempre di quella volta che sono venute queste ragazze in minigonna corta a corta, sono usciti di gabbo e senza dire nulla a nessuno, poi avevo comprato un'enciclopedia. La seconda volta avevo fatto la riunione, se non se ne vanno veloci, cazzo, buscavano pure dentro. L'enciclopedia? E te ne ricordi? Non ho mai visto una riunione così, io ci ho fatto questi lo buscano, cazzo, adesso. C'era poco incazzato a Giorosso, sono gli altri. Dice, come vi siete permessi a comprare un ciclope di ma noi volevamo prendere una cosa. A me non fare nulla. Mamma mia. 50 anni fa e manco me la metto più. Come? Sì. Ma che fine ha fatto Angelo Vascio? Non l'ho più sentito qua. Dove che stai lavorando lì sempre a Testoni, insieme a Coso a Dopperoni. Non sono più visto manco io addirittura. Prima lavoravo spesso per spantare il gasolio in Gerizzetto dove abitavo io prima. Poi da quando è toccato ho perso di vista. Non l'ho più vista, no? A volte passava anche lo vedevo che si fermava quando lavorava a Osai. Poi non l'ho più vista, non so se è ancora lì a prontare, se ci abita ancora, boh, se è cambiato casa. Ma sono senza fare, no, perché lo conoscevo anche di vista, quando facciamo le riunioni lì a Coso a Porto Torre. L'ultima riunione che avevano fatto, se c'ero io, Don Peroni, Leone, Don Ciccio e tutti gli altri del CP che adesso non ci sono più, capito? La buona anima di Mario Mao. Dall'anno sono senza vederlo, Era lì allora. E scendevamo a Paesi CB, via Porto Torre, se c'era tutto Sassari, diciamo, che c'eravamo iscritti, eravamo io, Andrea Maricomio, Gianni Rosabianca, Angelo Delfino, Carlo Pescettale c'era, e poi c'era quello che c'era la macchina rossa, che non mi ricordo il nome d'attivo adesso, chiamavano Good Nine, poi Sando Satellite, eccetera eccetera, ma era, ci divertivamo almeno. Dopo era cominciato a quando scendeva lui, cioè ogni tanto c'era la fanatoria tra la CB, la possibilità di farsi fuori dalla sede senza un papà lo vento, allora boh, ha giocato il dito, gli tocca la volta a parlare io sono peggiore del testo di Sassari, no, ogni volta c'era di me sempre a fanatoria, vero, quello che metteva la parte dell'altro, poi si truffavano dentro, a volte si picchiavano dal balne, in via di Zetto. Arrivavano anche quelli villini, sono picchiati anche un paio di volte dal bar. Ha detto, bobo. Faccio con TM anche, ti ricordi? Con l'ottobre, ti ha mettato in ottobre. Ma lì sono, aspetta, mi ricordo anche chi scendeva, che veniva lì. Della Lorenzo, lo Trabebbo, non so se va bene con il baracchino Lorenzo, il fratello di Francesco. E a gaffa, che bel ricordo, cioè. Eravamo un bel medici, facevamo, sa se che proprio se la notte facevamo il come si chiede, sempre la notte facevamo. Quando c'è la sua sei portatore, c'è la poca gente ubriaca, ragazzi, per carità, uscivano da vite di sotto, erano la portatore, già cutti, male di fare a chiesa. Ah, per la processione, quando facevano il servizio che scendevano a piedi, da Sassari, ma voi era cibo di biciclette? Esatto, sì, c'era quello delle biciclette, me lo ricordo quello, era fissato quello lì per il baracchino. Faceva anche lo sposo addirittura. Ok, non me la metto già, perché io abito tutt'ora lì vicino, no? E di Valavani, Torrenocco, e Coso, Battista Cusso, sono nella del Bogo di Silvestre Soccotti. Oddio, bei tempi allora era, bei tempi. Ci ripetevamo e ogni tanto c'era qualcuno scartonava e si azzuffava, non era poco. Poi una volta si picchiavano, tutto al bar andavano come se non fosse successo niente. Ma ti hanno mai portato in campagna da dottore, quando facevano gli spuntini lì, lo chiamavano il range? No, negativo, non ci sono mai andato l'anno. No, lì facevano le rostizze lì. E via. Avanti Tony. Che pagava? Che fine ha fatto? Tornino Kawasaki? No, l'ho visto 2 mesi fa, l'ho visto. Sta lavorando in cosa? Dove c'era la Italia, là. Alla provincia sta lavorando. Intanto lui a lavorare mi sembra che mi rimanga, ho fatto 5 anni e va in pensione, è stato fortunato pure. Adesso non devi senza vederlo, ma parecchio tempo mi, non ti dico molto, una decina d'anni, senza sentirlo. E io non cagare a cazzo, non ti dato due conti. Cioè, ogni volta che entrava la braccia, no, con qualcuno se lo vado a fare sempre. Ho visto a poco la piena d'ora, ho visto che stava volando sempre un camioncino a fare i biglietti, secondo me è stato tipo tranquillo, anzi quello faceva schiettare a Falcone. Quanto si incazzava, non lo sentiva. Chi è? Piero Drago. Ah, lui si incazzava molto, vero? Certo. La cosa si incazzava, ragazzo, Falcone è sempre portante, ragazzo. A manetta, sempre, ragazzo. Sì, tutto li facevano, pernacchi, io. Quando c'era Falcone, la verità c'era casino, però ti posso dire una cosa, la frequenza, i salari erano sempre pieni, tu sentivi a lui 24 ore al giorno e faceva compagnia ai camionisti, lo sentivano anche a Marco Venni, il mio punto non era, guarda che era strano, lo sentivano anche fuori, io dei giorni di Marco Venni stavo, ma va bene. A te ricordi Antonio, un giorno che l'avevamo chiamato, che siamo andati a prenderci una birra? Ero io, tu e Gabriele Comperuni, nel mese di agosto, guarda. E lui ha detto, ma com'è il tempo? E qua sta piovendo la casa, è venuto il cappotto, guarda. Già me lo ricordo. A cosa era venuto? Alla pizzeria? No, alla niente. Che ti hanno dato per pagare una birra che aveva 200.000 lire, guarda. E poi ne abbiamo trovato il resto. Allora capito, c'aveva quella 131, ti ricordi? Che me lo ricordo, a fuori testa quella. Cazzo, in cappotto nel mese di agosto, con un caldo, cazzo, e lui, per questo, cazzo. Non paga tanto, perché non conosceva i soldi, cazzo? E per quello già pagavo io prima, perché il resto era scontrino alla mano di tornato. Ma che quella lì ci picchi, cazzo. Cazzo, riprendi Luca. Meglia. Meglia. Adesso è tutto dimezzato. Non ho più nessuno, però sta a contattarli. Non mi sa bene. Però era bello prima, eh. Una metà che quando ho cominciato a due erano dei bizzini. Facendo giugendo fende. E vabbè, il tempo passa. Proprio con questa cosa che andiamo su internet e così, ancora ti manco? Internet sta declinando parecchio, non ti preoccupare, visto che gli iscritti stanno calando parecchio, la gente sta stufando di usare il computer, anche perché si è trovata un bel male, è un periodo brutto, capito? Secondo che tu di lì, a posto di guadagnarci ci rimetti. Ma io so una cosa che va nella testa delle persone che non fa uno a fare lì, a chattare, a fare con persone che, con profili che magari non sono maturissimi, ma non ti dicano, boh. Adesso no, a parte quello, ma c'è un bel gente che sta facendo i soldi dalle tasche degli altri, capito? Accede nei dati personali e ti scarica, capito? Si fanno i soldi così, fregano di là all'altro, specialmente in Romania, l'hanno studiata bene. Entrano in qualsiasi posto, anche di problemi di cui c'è che ti pare ti piace, tanto che la foto è sempre di là, ormai l'hanno studiata bene, quindi uno se ne usa internet lo deve usare solamente così per parlare, si può parlare, poi vuoi battere, piglia e non ci mette manco l'altro, nulla. Nel profilo della Cilente deve metterci. No, assolutamente, ma manco uso di scritto, tipo visita questo sito, no, di radio per esempio, no? E accedi con il tuo login, con il tuo cosa, no, fammi vedere se mi fa vedere, se me lo fa vedere così, se no niente. Se un bel gente scoppiato la computer, questo bel gente sta cambiando nuova idea. Allora, tu Tony cosa ne pensi? Ma ti dico la verità, no, a me poco mi interessa entrare in internet perché non mi va. Perché quello che stai vedendo, se ne sentono, in tutti i colori, almeno qua non vedi a nessuno, parli e sei più tranquillo, invece là sei sempre, c'è sempre un occhio magico che ti vigila ogni tanto, se ti fanno visite. Senza contro lei, ma pensa che fosse cosa Huawei, beh, mannaggio io, tutto cercato. Mi sembra un po' che le aggiungo il completo di nastro, figurati. Qua sono una massa di maniaci, cazzo. Infatti, ho visto, rientrano in web, cazzo, vedi, fanno conoscenza. Cazzo, chi ammazza una parte, chi ammazza l'altra, cazzo. E a parte quello, te ne stai chiamando la l'identità, capito? Con i direttori, compra quello che vogliono. Ok. Antonio Grobbe. Io vi sto ascoltando, che sto guardando cose nude al computer. Maria, guarda, cose fine, mentre oggi non viene per cantone, almeno così. Oggi già vera, a Santa Maria Covina, insomma, è molto in endi. Oh, ya, no, su me non lo tempo, male, guai, mi ho messo a cazzare, bella, per carità. Santa Maria Covina, non è che tanto distante, no? Sarà un mezz'ora di me, anche 20 minuti dai. Il problema è che se promette male, adesso vedo un attimino, se tiene il tempo, però deve alzarsi un po' il vento perché non piove. Se no ci rivediamo dopodomani ad Ardara. No, il vento non so se è fastidioso, ti fa volare tutto. Però non ti magna e fa sì che non piova. Se tiene basso il vento, cioè un po' di vento ma non eccessivo, l'importante è che non faccia piovere. Ormai è andata bene ieri Alghero, comunque dai, già mi posso rilassare. Andare. Alghero c'è sempre abbastanza bella gente. E molti turisti c'erano ieri, un po' di umidità, però già va bene dai. Va bene, adesso iniziano lì a piazzare sabato e domenica, fanno le bancarelle per tutto il lungomare. Io ci andavo qualche volta, qualche sabato, dai, qualche domenica pure, anche a moto siamo saliti. Sì, infatti già si sta bene. Già si sta bene, però io preferisco il conduttore, nel senso vero se riesco a piazzarla fissa lì. Ma dove però? Al corso? Io al corso dove c'è il baretto giù, alla, come si dice? Come si chiama l'azienda, ricordami? Dove c'è il bar cristallo? In fondo, dove c'è la prima edicola? Ah no, ma sto dicendo vicino a Balai, come si chiama? Allora vicino a Balai devi salire su all'ancora. E cappa lì. Beh, lì adesso conviene perché c'è tutto il mese che c'era, hanno portato il santo lì alla chiesetta. Poi ci potrebbe essere un bel giro. La gente ce ne va sempre. Rimangono quasi per un mese lì fino alla festa. Padre Roger, infatti è così. Adesso vedo un attimino, dai. Ma lì è ventoso, secondo il giorno capita è ventoso. Invece in piazza è più tranquillo perché sabato e domenica chiudono e fanno aria pedonale, quindi c'è la passeggiata. È lì in piazza del comune, o sotto dove c'è tu, appunto, dopo il cristallo dove c'è l'edicola, è un buon punto. Ma se c'è vento deve andare a romantessi, lo botti in chivi e si romagnerà a Sennari. Guardando questi baracchini in America costano una miseria, però non te li spediscono in Italia. No. Vabbè, aiutiamo che sei che il migliore di subento, ma siamo al bar di Lulebosa B, che è già a maggio, dopo 5 di maggio. L'anno scorso mi sembra che già la gente andava a mare. Ma ci siamo sovramodulati per un attimo, ti stavo dicendo, è pieno di baracchini in America, su eBay, che costano una miseria, tipo 35 euro, però non te li spediscono qua in Italia. No, e dopo non mi sembra che c'è anche quello della dogana lì, ma non conviene, quando li comprano lì dall'America, purtroppo ti devi sempre appoggiare a un rivenditore qua in Italia che c'ha la cosa, là, diciamo, c'è la rivendita che si fornisce da lì, sono tu da solo, come fai? Sui beni puoi comprare, l'unica cosa che paghi gli oneri doganali, ma basta praticamente non dichiaro valore effettivo. Ma però c'è un rischio che se te lo perdono ti risarciscono 9 euro, capito? Il più delle volte si accelerà così. Più delle volte lo aprono e se lo furano. Non piccano dalle due, non piccano dalle due, no? Casino stai, Lugariello, Lugariello. Buongiorno a tutti, ma non mi credo per la caffè io. Dai, se proprio vuoi, pagalo. Ciao Luca, buongiorno, allora dai, fare da pusher d'ora così come colazione. Ah, e tu ti porati, no? Io voce che hanno già via. Ah, ciao Gianlu, buongiorno, ti facciamo la domenica, Torino, Antonio, Bogonio, buon ramo che ci sia, comunque la domenica a tutti, avanti. Aspetta, io ci metto lo zucchero me. Ma guarda, tu lo sai che con me, eh? Hai poco da campare. Dunque sono ramodulato, ti ho anticipato, se ti voglio ti schiaccio come voglio. Ma la prova? E con chi vuoi fare la prova? Come vuoi, quando vuoi. Se mi hai 10 minuti di tempo, attacco una cosa e poi vediamo facciamo la prova. No, ma adesso ti voglio, così che io sono liscio. Vai con Porto Torres, vai sopra di me, vai. Attenzione Porto Torres, eh. No, ma non è fa Luca questa cosa. Ciao Luca, come sono tutto, buona domenica anche a testa. Sento fuori da Porto Torres. Bevo un caffè, no, con la Torres. Torres, eh. La Torres. Altro vagonese. Attimino, dai, che mi comincia a levare due cosettine dal tavolino qui. Riprendi Torino, fa girare, le mando un attimino in ascolto, eh? Ok? Chiava. Ciao Luca, buona domenica anche a te. Fanno schiattare Antonio. Io attacca Luca. Vai, riprendo. Di no. Dimmi. Passava. Ieri c'era una portante per sbaglio, non passava nessuno a Sassaria, da Claudio era 9.40, passavo solo io. Ma cosa aveva attaccato? Si era dimenticato il tasto del microfono? Magari ha lasciato acceso questo qua e c'erano i figli e magari hanno schiacciato ed è rimasta la portante inserita. Poi tramite ascolto, che stavo ascoltando, Claudio è riuscito a intercettare, ha telefonato, io ho sentito pronto e l'ha portato mollato. Ah, sono sottomodulando. No, ci sta sempre la portantina perché ha parlato con quel tornato. Oh Gigi, ma non si sente neanche, Positivo, non ce l'ha portato. Ascolto tutta la grenga che c'è oggi, non è che qualcuno, non è che ci avesse soldi più. Più si manca. Ma ci vedi che è andata a buttare. come se tirare un vento, Inter, compreso. Ma guarda, se tu vai, guarda, ho messo il tirante, tiro a tiro, adesso questi giorni qua, come sono un po' il tempo, provo a tirare, le metto le qualche cinque di tirantini, quelli con i vittimi, però non vuoi cambiare anche il cavetto? Le levo la fragola e le metto un cavetto? Già, va bene, perché ti sei ferrato quello, non è detto, giusto, è un ferrato quello, però... Sì, sì, un terrazzo, dopo c'è un bel punto d'ancoraggio. Dalla parte dove devo tirare praticamente c'è lo scorrimano, diciamo così, il parapetto. Poi si deve essere finito, se non l'ha dato mai fastidio. No. Lì devo tirare che metto questo collanello, forse cambia anche l'occhiello che c'è col tastiero, perché non è... Forse anche quello lì mezzo partito. Devo fare un po' di manutenzione, che sennò il mio ufficio ce n'è qualcuna in più pure dell'antenna, qualcuna in più non ci dovrebbe essere sopra, ce n'è qualcuna in più, ho visto. Sì, qualcuno ha chiuso in ricezione, mi capito, quando qualcuno chiacchiera in qualche altro canale, così non so per fare quel radioascolto. Ho capito. E riprendi Antonio, che un attimino, dai, continuo a fare quello che stavo facendo, un attimino, Antonio mi sta controllando la casa a corte, tutti che ci sono, dai, cosa si può dare. Ma è una cassaforte, ci ha messo sotto dentro un baule quello. Sì. Almeno non lo tocca. Dice, cazzo, questo è morto, questo si è messo il baule sotto il letto e meglio non toccarlo. Oh, non rimangono più sotto. Non rimane più niente, cazzo. Non lo so. Prima ne avevi a bomba, adesso non ne rimangono più, non si rimane più niente. E la gente sta imparando a mettersi sul direttamente in casa, non ti preoccupare. Anche se c'è il rischio che qualche giorno magari ti aprono la porta sapendo che vieni sotto in casa. Però in banca, per farti mangiare dalla banca, un bel gente sta togliendo. Positivo, però se non mi sei finito, guarda che devo andare a Borgo Manero io, Devo andare a Borgo Manero a rappresentare la Sardegna. Ah, cosa vedi? Alla fiesta? Ah, faccia. E dovete fare la colletta a 2 euro a testa e facciamo la maglietta con la Sardegna e rappresentiamo la Sardegna. Sì, per fare la maglietta non ci vuole molto, basta andare in cosa te la fanno, costa anche poco, mi pare. Non costa neanche molto. Per farla, cazzo. Ogni volta non l'ho mai fatta, stavo per farla questa volta. Allora, ci sono, me ne faccio le magliette. E ci scrivo porco fu tutto. La volevo fare, per fare una rappresentazione, la volevo fare. Per rappresentare la Stato siamo, questo capito siamo in tre. Io Giovanni non originale, insomma, dovete venire da Cagliari. Siamo in tre, noi siamo in molti, in tre siamo là avanti. Sì, che c'entra, ma cioè per fare la cosa carina non è che ci vai in treno a fare una maglietta, per quello ci organizziamo, quanto quello sono, 5-6 euro da pagare per ogni maglietta, 10 euro. Ognuno si fa mettere i nominati col suo e si fanno le magliette, se no cosa ci vai a fare? Secondo me, almeno ci va mai da sua. Tu che ci sei andato no, a Borgo Manero, no, non è che ci sia tutto questo granché. L'importante è andare lì, ci vogliamo per dire 40 magliette. A poter pagare per dire 10 euro, lo paghi 7 euro, ti fanno anche lo sconto e ognuno c'ha la maglietta sua. Poi è libero di usarla, se la vuole usare per lavorare, o così, tanto per quando fanno qualche... per dire qualche riunione così, ci vediamo magari a cosa, poi ci mettiamo tutti la maglietta con il relativo e boh, tanto qua, come fanno gli altri. Ce l'abbiamo vista la maglietta, ce l'abbiamo, noi la maglietta ce l'abbiamo, con il nome in affine quasi, ce l'abbiamo, ce l'ha Falchetto, ce l'ha il Radio Falviero, ce l'ha Fultolte, ce l'ha... tanti ce l'abbiamo, l'abbiamo fatta l'anno scorso, ce l'abbiamo la maglietta, Barra Agricola ce l'ha, ce l'hanno in tanti, c'è tutta la Sardegna, in Grecia, Olbia, sia, se non la maglia è nostra, però non fa. Abbiamo vestito in giro la stessa per la maglia. Col nostro non è qui. Però ce la siamo fatta noi personali, tutte precise, però ne abbiamo fatto. Abbiamo fatto una maglietta stessa, da quest'anno la stiamo, le rifaremo nuovamente, stiamo facendo, le stiamo rifacendo quest'anno con la nomina 5. Se questo è quello, vediamo che sia di cero, vai a Bati, fai un giro su Geppalittis, almeno c'è una maglietta che ti rimane un anno e mezzo, dipende da quante volte la usi, perché non si consuma, capito? Ma conviene, se volete fare le magliette io per te non ho problemi. Tu di solito me la fai fare, con un attivo mio e pazienza. È una cosa che rimane, capito? Sì, sì, io me volevo fare una bella per andare con domani, non vado con una mia personale per andare via, adesso quando vado via il 7 luglio devo andare. So già che siamo già la lista, siamo già intorno vicino ai 400, siamo già intorno ai 400, e niente, sono andato altri anni, però non ho mai fatto la maglietta così, se ce l'avevo, non l'ho fatta con gli altri qui, non però portando lo stesso, però quest'anno mi sa che me la faccio, intenzione di farmela e fatto fatta con Giovanni l'originale, ce la facciamo tutti i principi, vedremo i quattro muri o lo tema della Sardegna con nominativo, qualcosa da fare. E proprio fare così, se chi lavora basta che chiedere, raccogli i soldi e fai fare le magliette, basta così, per me non ce ne stanno, se quando vuoi lo dici, ci vediamo, ti do i soldi e me la fai fare la maglietta. Non è un granché tanto, di cielo sono una cazzata. E cosa poi come nominativo adesso per curiosità? Antonello Pomponio, cosa dovete mettere nella CV, cosa metti tu come nominativo? Ah, ci metti Alessio, cosa mi da fuori? CB Alessio. Poi Pomponio, come ti fa, ti piace, non cambia niente. Ma sto dicendo, no, quello devi che lo devi sapere tu cosa è, come cosa ti conosci come compugno. Secondo me devi scriverci Pombo dietro e Nio davanti. Te invece Pacciano. Io ti ci Alessio, dai, va bene. No, Pomponio ti devi mettere, Alessio, Pomponio, sì, Pomponio ti metti Pomponio. Vabbè, mettimi Pomponio, cosa cambia, non cambia niente. Ti mettiamo tutti così. Anche quando vado al bar, figurati. Anzi, quando andavo a scuola mi conoscevo come Antonello, tutti quanti mi chiamavano Alessio. Anche il professore, ha detto, ma professore perché mi chiama così? Dice ti chiamano così tutti. E poi questo nome è strano che ti metti, se sei Antonello non sei Alessio. Ho detto, no, sono Alessio, detto, perché fanno la baracchina. E fanno tutto io. Allora mi chiamavano tutti quanti così, perché c'avevo la classe di 3CB c'avevo, figurati. E poi portavo i barattini a scuola, quando ero all'INAP qui. Dentro quando c'era un laboratorio, lasciavo il multimotore attaccato all'emettatore e andavo alla macchina e parlavo direttamente da lì. Nessuno me lo toccava. Il nome è tuo di battesimo, proprio il tuo di battesimo, quale è? Antonello. Pomponio. Antonio, sì, Antonio. Antonello o Antonio? Proprio di battesimo, come ti è registrato nei comuni, Antonello o Antonio? Antonello, sono registrato. Proprio Antonello, ti facevo la capetta e scritto Antonello. Cosa c'entra Alessio? Alessio non c'entra proprio. Buongiorno Sandro, adesso è il mio attivo di baracchino, Pomponio me l'ho messo a Umbia io, quando c'era Pier Andrea, la buonanima che non ho più sentito. No, già hai visto, senza voce, ma già hai visto, l'ho visto da poco. L'ho visto da poco, e anni fa ho iniziato a fare calcoli, e sapete dovevo fare una cosa, ho preso una penna, eravamo al parco. cominciato a fare calcoli di calcolo, so che devo fare, ma secondo te, ho detto come era meglio farlo, portarlo, ho detto devo fare un spezzone in camion, e siccome è un bel distante, ho detto potrebbe andare bene una 7-8 metri di calcolo, ho detto succede qualcosa dalla scarpa al paradiso. No, lascia fare a me, aspetta, se la fa conto, grazie, tanto devo ripetere conti. Devi farlo, ma di tu 7 metri, e ma di 3 centimetri. Aspetta che faceva 11, multipli 11, sotto multipli, cosa del genere. Ecco perché stavo facendo quei conti, non per altro. Avanti, si è salutato poco fa. Buongiorno, anche se non è un buongiorno, comunque buongiorno Alessio Gigino, e mi sembra aver sentito proprio Antonio, avanti Antonio. Facciamo Sandrino, e infatti non è un buongiorno, è un giorno di pioggia, un giorno di mattina, come si suol dire. Io so che sto cercando, anche tu se c'è qualcosa in più che non sai cosa farne, che mi servono, se c'è soldi in più, ho già chiesto a Antonio, Pompone ha detto che è a zero, Antonio è andato a controllare la cassaforte, a te se c'è qualcosa in più che non sai cosa farne, che devo fare un viaggio, me devo fare. Ok, non c'è problema, dammi tempo che devo controllare un attimino, c'ho una mattonella che... C'è una mattonella che si muove un po', e ho sospetto che si siano bloccate le manzette, quindi qualcuno la deve eliminare. Che sputi, scusa. Sì, dimmi, mi stavi dicendo qualcosa. No, non ti dico niente, sai già tutto tu, quindi provvedi. Ho già tutto io. E sei tutto tu. Sai che la maglietta me la devi fare. Cappa Roggero, cappa, no, ancora non so niente, io no, adesso stavo parlando della maglietta di che devo andare a Borgo Manero, capito? Quella che devo andare il 30 luglio a Borgo Manero, rappresentare la Sardegna, capito? Me la volevo fare una con la Sardegna o quattro mure qualcosa, perché devo andare lì per rappresentare, siamo in tre che andiamo dalla Sardegna, capito? Ho capito, sì, mi ricordo lì a quel raduno lì a Borgo Manero. Ho capito, va bene, guarda che se ti devi fare la maglietta, poi non lo so, magari lo saprai benissimo dove andare, ma se vuoi, diciamo, c'ho un amico qua a Polo Torres, dove io mi servo, di solito mi servo da lui, dove io faccio, diciamo, degli adesivi, dove io faccio... L'anno scorso abbiamo fatto anche delle magliette, insomma. E se ti interessa, compro Torres. Positivo. Adesso, allora, siccome l'anno scorso abbiamo incaricato lì a Cagliari, e adesso gli ho dato il compito nuovamente per... Poi mi diranno tutti quelli che vorranno una maglietta. Allora, non so se... Poi che... Non lo so, ormai mi pare che sta già preso contatti lì... nuovamente con questo di lì a Cagliari, capito? Una maglietta per il famoso raduno che si farà il 21. Non lo so, no, se questa è una mia cosa mia personale, capito? Se la facciamo, ne dovremmo fare tre, perché siamo in tre che andiamo lì a Borgo Manero, se ne faremo tre solo di magliette, capito? Però quello potremmo anche fare lì a Porto Torre senza problemi. Sì, ma non c'è problema, può essere uno, può essere tre, per quello non c'è problema, capito? Non c'è problema, già è un ragazzo diciamo con la testa sul collo, già è abbastanza, almeno io mi servo sempre da lui. Adesso devo fare un bel po' di adesivi, quindi diciamo non è tutto questo gran coso. Va bene. Mi ha detto devi risimulare soldi, ma sono a un buon fine. Però ti faccio una bassa. Una bella vacanza io. se ne avete in più, se non sapete cosa farne, se ne avete in più, sto chiedendo io. Ah, ho capito. Sì, sì, e questi periodi in più mi sa che, insomma... Lo so. Adesso facciamo le magliette. Vota Antonio. Ci posso mettere Sandro nella maglietta, sì, per poco male. Per rappresentare la Sardegna, cosa posso farci? Aspetta il telefono. Mi ha chiamato proprio. Devo andare all'orario, non ci sarei più a prendere. Sposa la mia nipote che c'è qui a fianco oggi. Oggi sei di matrimonio, eh. Vuoi far pago? Pago che sei vicino di Tisidome. Sposali a Ottava, quello di San Giovanni è quello che prima di entrare in chiesa chiede i soldi. Se portano per più. A me lo ricordo sempre quando si era sposato Piero, la prima di entrare a chiedere davanti a tutti, ha chiesto i 100.000 lire, Paolo, 200.000 lire voleva, se no non ce lo sposa nessuno. Perché deve essere manco? No, no, attenzione, non le voleva il giorno, le voleva prima del matrimonio, qualche giorno prima le voleva il soldi. E che se no ve la dici prima entra in chiesa te le domandava. E così fa, ha fatto, le ha domandate a tutti. Se no se mi capo in mano allo sposo, meglio che venga qua, che mi dia i soldi, se no non faccio nessuna funzione religiosa. Però lui è macco. Non ido da quello lì, perché io l'ho sempre detto, non ero mai sentito in razza, l'ho detto qualche volta, non ido, io era Don Nito, si chiamava Don Nito, non interessava solo il sud, interessava Alba. Quando ho battezzato i gemiti, per la metà cura, sono andato a chiamare la gente, non c'era, c'era la sorella, e c'è già una campagna, no? Vabbè, mi ha dato il numero, adesso perché lo chiamo, per l'appuntamento, per mettermi d'accordo. Meglio un giorno chiamo e mi risponde sempre la sorella, sì, ma abbiamo parlato, dice sì, va bene la domenica a tale ora per cosa. Ah, perfetto. E ora ho fatto, non c'è più di caso, sta lì, a chi sura sono andato. Così di solito vanno in chiesa a portare per prepararmi, non so, per prepararmi, e non mi sono cantato le pattine, se ne vado la sera, sono cantato e... No, ma la predica me l'ha fatta da voi, ha fatto, non si è cagliato un punto, ha fatto una cosa, ha svegliato le dinari, quando ha finito tutta la cosa, ha detto, dice, ah, vedi, dice il padre, se n'è uscito con una sola telefonata. Non è che è venuto a vedere per in chiesa, nulla, credo che ci sia, e io del mio ma ha solamente telefonato e confermato l'appuntamento e la dice guardate. Era una cosa allucinante quel prete. Fuori di campo era. Mi sono detto niente, non andava in madonna, voleva. C'era la quota fissa lui, per il matrimonio, per cose tutte mie sorelle, da anni e anni, io quindi noi tutti all'esperate in chive, voleva i soldi prima, giorno prima dove ci andavo, tutti di prima. Voleva i soldi già lui, c'era una quota, lui, un momento di 300 mila franchi, 200 mila, comunque c'aveva quella quota fissa. E poi ha fatto quello che si faceva quando passava il certino, che chiedeva i soldi. Don Bruno era un mattino, questo operante in giro su Don Bruno, passava da Mattao, si viene in quindi che il mattino con Bruno, se non altro Mattao, con Paragliesci, andati a Puglia, ma lì noi pigliavano Bruno, no, per non pagare un biglietto, ma lì a, in cosa, da Rita, da cosa, da, come si chiama, da Tintino, in autostop, a Puglia d'Oro, ma andati a, e tornava sempre in autostop, ma non so cos'è che non si è Don Bruno. Sono andati a domandava e domandava di là sempre in Paragliesci, andati a nei crossi che finirono in Puglia d'Oro, dai, nei crossi, ma perché era autostop, e poi si va di altruino, di privata, chiaro, del coso, ma di cose grosse, no? Ma domandate in alto, e domandavate in apparaglia, la mandavo veramente ancora, andate a che sapete, da tutti quelli che c'erano grossi, portò se non pensando, andate a domandare in apparaglia di più. Sono tutti così adesso. Tu figurati, aspetta che c'è quel carburante, non ci va più nessuno via, io dico noi alle funzioni, allora si è preso il pizzo di appelli dei fogli in questo rione, manda le come si dice, le ragazze qui a chiedere i soldi, capito? Per la chiesa. Sono andato a frente, non usava le macchine, ma chi è andato stoppo? Tu non mi dici, è andato stoppo da Sintino, poi tu torna, la domanda di là. E da poi tornava, sempre andato stoppo, sempre andato stoppo, tornava. Ma qui ci mandano le catechiste, si è pigliato quel vizio, appena i fogli, a tavola abbiamo parlato, dice vengono le catechiste, hai capito? Perché non ci va più nessuno in chiesa lì a Carbonazzi. Già me l'ha fatta gratis e... tutto il governo gliel'ha fatto, gli ha dato i soldi e se l'ha fatta gratis della chiesa, c'è una città chiesa piccola e l'hanno fatta più grande. Poi adesso devi tutto il quadro, era tutto quanto affittato, un po' c'era il comune e il resto c'era la patria della chiesa, capito? E quindi ce li ha i soldi. Adesso fanno così, siccome non ci stava più nessuno lì la mattina. E quindi manda le catechiste adesso. Io sono dormito, siamo dormito. Ma metto da dire, viene cavata all'aino, anche perché aveva messo anche incinta una ragazza. E se viene cavata da un paese da dire, cavata all'aino, se viene mandata. Sono preti strani. Ci sono preti normali e preti che sono totalmente per i fatti suoi. È positivo. Sì, a quale telefono sono? Non so che entrati, io sono un po' devo scendere la prodotto. Certo, l'operazione spagnola c'è, poi brutto. Avanti. Ciao, dottore. Sono tu lì, ben sentito. Sì, trovando la cordatura. Sto cazzo, sono riparato, forse non ho uscito di lì. 9:20, sì. Ah, beh. 9:20? Ah, no, Luca. Sì, 9:20 alle 5. Ciao, avanti Luca, ben entrato. È sparito. Mi sono assentato. Ciao, dottore. Ciao a tutti, di nuovo, là. Qua 9:10, Tore, tocca la radio e passa. Vabbè, sto andando a uscire adesso, trovando qui. No, forse, se mando uno. Non portate la radio. Santiago 5, ma la radio non ce n'è, non è da tirarlo fuori, Santiago 5, ma la radio non ce n'è. Gigino Vulcano, c'è a tutti Luca qua, cara. Luca, io ti ascolto, ti ho detto ciao Luca Ariello, però tu non siccome sono basso basso, piccolo piccolo mi hai detto. Ti ascolto, 9:10 sei qua. Io pure. Ti dico a Camarò, 9:10 segna qua, 9:10 ti do. Sei arrivato in 5 e diamo 5, Non stanno dando partita la negozio. Ti la metto di qua, sto cazzo di negozio. Abbiamo un caffè, ui. Lo so, ci vuole rispetto, ma... un limite, ho capito, uno paga, è colpa sua, non si può risolvere il problema, con la macchinetta risolve il problema. Allora, non è fatto il macchinetta, non risolve quel problema, no, risolveranno loro, hanno rispetto di me, io devo anche di loro, non è che mi dicono nulla, però non mi fa a me, fa mi sentire dagli altri negozi, ho capito. E vabbè lui, c'è un problema è di loro, lo risolvere loro, non tu. Poi, è scelto di fare quello che vuoi, ci mancherebbe. Poi vabbè. Sono le 10:20, Carlo, lo sentisci? No, Carlo, non è pari il caffè. Le 10:20, no, devo scendere la prova e chiamo. ormai sto scendendo alle 10:30, non prenderlo, devo scendere a Porto Torre. Ma dimmi una cosa Luigi, come si trova a Piera, amica di Carletto? Ho capito, a chi? A Piera, Pierangelo. Sì, e beh? Ma vicino a te abitano. Sì, perché? Non niente, io l'ho invitato, ma insomma, non stavo bene. Me l'ho invitato, l'ho fatto una fitta. Arrivo, vieni, poi alla fine non... Cioè, ma io ho un freddo, ci credi, io ho un freddo di sera. Sono coricato un po', un'oretta circa. E poi niente, mi sono andato tranquillo. Qualche volta ci ho trovato a Franco, Franco California, dai, con loro stavano pigliando carne lì alla sigla, stavano alla routine, carbone, tante volte mi è capitato di trovarci insieme a Franco, Franco California. Ma molto vicino a te, però vicino? La via di casa più in alto, più in fondo, mio Luca, la via piano, però in fondo deve andare giù in fondo, capito? In fondo più avanti, in fondo, e poi c'è la via. Ma ho capito, la via è più giù, e più all'interno, dice, vai giù. Più a vita, no, non la campagna. Allora, guarda che la... Coso, Carletto, tuo fratello, la Silvana si chiama la... Silvana è l'amica con la moglie, mi dice, da anni, vedevo che stavano sempre insieme, capito? Mi raccompagna da 25 anni, è qua, cioè di 23 anni circa. Sì. Niente, la prima volta mi ha invitato a Porto Torre, solo che non... non potevo scendere, non lo so come, non so se non era qui, c'era qualche cane, un casino, e la stessa cosa, in Italia non c'era problema, lo portavo giù, non era quello il problema, però siamo qua, però stavo bene, non è male, sono stato bene, sto lì a cosa, alla metà mi hanno mandato a Pannamini, donna, fatevi a piedi, non aspettare la comunità di loro, no, ho preferito non andarci. Oh, che brava persona, ti sto dicendo, bravissime persone serie veramente, no? Persone abbastanza serie, conosco da tanti anni, e persona, diciamo, è la sorella della moglie di Coso, di Piero Monti, capito Antonello, un pugno. La sorella lì? Di Piero, ma che no? Marisa, no, Marisa? No, della moglie di Piero, della moglie di Piero, capito? Della moglie, non delle sorelle. Ah, già ho capito di chi stai parlando, già la conosco. Mia, di Pierichi, insomma, la sorella della moglie di Pierichi. Già li conosco tutti. Non c'è problema per quello, già ho capito chi sono, la voglia, ce l'ho pagato il vasco quando gli ho detto a Luca dove abitava, e ora sapevo il biglietto, che più la abita lì, i parenti, diciamo, la moglie però abitano a sinistra, sono scendendo. La sorella di Carletto, quel ragazzo malato, Carletto. Già lo so, già lo conosco a Carletto. La moglie. Ah, sono ben poco, non ci batti con l'ottava io, Sarà 7 anni che non mi vengo lì. Prima ci scendevo spesso che c'è zia lì. E quindi vedevo spesso a Giovanna, la sorella di Maria Giovanna, i fratelli, eccetera, eccetera. Giovanna è la moglie di Piero. Questa è l'altra, più piccola, ma bella, questa è una bella ragazza, tuttora è una bella signora. Sì, già me la ricordo, era fidanzata con mio cugino della Maddalena, quella. Già ho capito di chi stai parlando. Uno è con Gianni, anche lui c'è quel baracchino, la sua baracchina, Gianni, non mi ricordo quanto. La moglie di Gianni, una è sposata con Gianni, e quell'altra là. Sono tutte, tranne Marco c'era questo qua, detto, sono tutte le femmine, sono le femmine là. Sì, non so, andavamo quando si sposava le figlie di Gianina, venivano spesso, no? Già le conosco tutte, la voglia. Avanti, tu. Sì, già sono quelli lui, già sono quelli, come l'avevi detto prima. Un casino. Mi aspetto. sotto. Papagava, ma tu le divide da qui, da qua sotto? Da fare il sanato. Ah, fa il sanato. Ma tu le divide sul 12, però la frequenza che mi appare a me sul barattolo è libera, perché 122 risultava il 14 lì. Allora, 27, 100, 105 e il canale 12, 27, 115 e 13 e 14 e 27, 125. E 142. No, capito, 142? Ah, cos'è detto? 27? Fai, dove? 27, 142. Attenzione, sì. Doppio ru, Gigani doppio ru. Eia, eia, dai, buongiorno a tutti, dai. Poco fa non ho avuto tempo, stavo sgridando a mio figlio perché ogni tanto si possa il mio cellulare e si mette a fare le telefonate. Fa bene, almeno lo usa. E anche io lo uso quando mi serve, però, non per le cazzate. Io sono contrario a usare il telefono per le fesserie. Tratta bene a Marco, tratta bene a Marco. Ma sai perché cosa l'ho usato? Per ricordare di comprare le figurine dei Pokémon. Hai proprio ragione, scusa. Poi io... E vabbè, tanto... pantalone vaga. L'importanza delle cose è direttamente proporzionale all'età, ricordatelo. Ma ne ha fatto una due secondi fa, tu, di telefonata, due secondi fa. Adesso ha ripreso il telefono, ti pare che sia da buttare così subito? Per me sono sprecato. Ragione anche tu. Bene, vabbè. Non sei salito al quadrato. No, ragazzi, stavo facendo roba in cucina perché... allora di pranzo delle gente e cose devo andare anche a prenderli, quindi devo far trovare qualche cosa di pronto. Ho messo un porcetto a cucinare a metà e poi lo finisco di cucinare qui dopo che arrivo. Ma ieri ho visto il tuo, giusto ieri ho visto all'altra parte della strada qua il tuo dietologo mio. Non dietologo, diabetologo. Di cappa, quello lì, baffetto, dai. Baffo dritto, Hitler. Roger, che me l'ha detto? Quindi se lo senti, a tancarsi la bocca. Allora, perché lo parli? Ma lo saluto, ma sto scherzando, mica. A parte che, per come lo conosco io, è una di quelle persone che sempre gli chiedo se ti conosce, mi dice di no, per una questione di privacy. Guarda, come ha molta confidenza, perché? È stato cliente di mio padre lo conosceva da ragazzino, quindi immaginati tu, a me mi ha visto piccolo, eccetera, eccetera. E niente, però se quando io sto facendo la fila dico, dottore, un attimino, devo chiederle una cosa. No, non è che mi faccia delle preferenze, roba del genere. Me lo stai dicendo? Guarda, io lo conosco abbastanza bene, tu immaginati che siamo stati in sala d'attesa dalle 9 quando mi aveva detto di arrivare fino all'una, non so se hai capito bene, all'una, dalle 9 all'una, 3 ore, anzi 10, 11, 12, 4 ore, si è riempita e svuotata la sala 6 volte, per ultimo. Perché cos'hai fatto? Qualche esame di diabete? No, negativo, adesso non mi ricordo a proposito di cosa era, a proposito di lui non è, diciamo era diabetologia, una cosa del genere, non diabetologia, scusami, per la storia del, cosa fa, il, per la dieta, mi stava calcolando una cosa, diciamo un po' di tempo fa ho fatto una dieta, me la stava calcolando bene. E morale, minchia, 4 ore, era dieta tutto il giorno lì. Sta migliore stare lì in sala d'attesa, me. Io ero tornato pronto soccorso, che sai, ho un po' rilampato. Quello lasciamo perdere, no? E comunque, no, è bravo, però è uno di quelli che se ti conosce, anzi, ti mette per ultimo. Sì, così, come ha fatto soccorso? Quando ti conosco, aspetti. Vabbè, evidentemente c'hanno il nome segnato, capito? Dimmi quello e allora ti fanno fare un po' di attanteria. Luca. Un attimo di bianco. Eccomi qua, scusate, è un casino. Senti, un cacchio fa non mi rocca. mattina che la sveglia, infatti non so cosa serva. Fatto sta, ti stavo dicendo, ma si è preintenzionato sì a comprarti il 44? Io? No. Positivo, se lo trovo una di quello sì, se no no. Guarda che c'è uno qua che lo sta vendendo, eh. Guarda come la te. No, negativo, non ho copiato, abbassa un po'. Siano problemi, credo si possa fare anche il nome visto che è stato pubblicato su Subito, cioè su Subito l'annuncio. Vabbè, dimmi chi è? Salvatore. Salvatore chi? Salvatore, Salvatore, quanti ne conosci Salvatore in frequenza? Salvatore, Salvatore. Salvatore, scusa, Salvatore, Salvatore, quanti ce ne sono? Quello che da poco ha passato l'esame, non l'esame, ma già no, è diventato radioamatore. L'annuncio su Subito, considerando che più che controllato, poi Salvatore è una persona affidabilissima, credo che sia un buon affare. Aspetta, un'occhiata, aspetta. Non capisco, non capivo, l'altro giorno questo computer per aprirmi Google ci metteva 2 ore, adesso è più veloce, ma non capivo il perché. Della connessione, questi problemi tu. Ne sai qualcosa? Google è un problema del cosa della connessione, ma sicuramente c'è qualche virus anche. Questo va bene tu. Ma vabbè, ho fatto qua la creazione di un programma tipo Crea, che era un diciamo, quello per pulire il computer, no? Poi un altro. E vado a fare prima la creazione, se poi un'ultima creazione c'era a pulire il disco, no? Cercando. io contatto le persone, chiamo, ma com'è, bomba, adesso mi serve un apparecchietto, adesso dico, sto cercando un apparecchio, poi vediamo. Lo stai cercando, dillo. Ma vedi il tuo, vuoi il tuo? No, ridillo perché non ti ho capito, quindi se mi spernacchi vengo lì a te ne attacco l'antenna. Ho detto, se mi vendi il tuo V e U, la data che ti dimmi, ma sono troppo alto, boh, certo. Se chiudo non mi senti più. Cosa volevo mettere così, boh? Cosa vuoi, un 27-25? Ma non è che è tu, la mano di Claudio, mi serve. Dai. Aspetta che te lo trovo, dai. Quanto vuoi spendere? A vedere quanto. Allora, guarda, per ti posso dire una cosa, quello che c'era il era non bombo di più, me ne sono pentito, guarda, me ne sono pentito, mi hanno dato. Infatti, guarda, queste cose, a meno che uno non abbia bisogno imminentemente di liquidità, però non bisogna mai venderle, mai. E poi ci puoi dire, io sto contento. Vabbè, non so, vedi un po', come sapere. Elettronica, vediamo, no vabbè, tutte le regioni, tutta Italia, vediamo un po' se trovo qualcosa, aspetta. Ora ce n'è uno sul sito di Tono. Ma non c'è come la parnacchia tanto, non te modifichi la voce, già esci male, in più ti metti a parlare male, esci ancora più male. Dai, io ti cudo, vai. Bene, a macco, è un grande crisi mi cudi. Dito, te l'ho detto, a due finché non diventano dispari. Mi, bello questo, bello. Mi manda qualche cosa, io adesso, se ti dice 9, buono, eh. 9 è buono, bisogna vedere quanto te lo fanno, quant'è? 200 euro, comune di San Vincenzo, apparecchio praticamente nuovo, sempre usato in casa, meno per l'utilizzo, valuta premuto totale o parziale, con apparecchio CB veicolare o bibanda a portate, disponibile per qualsiasi prova, fermate, 200 euro vuole. Non credo che costi più di tanto, adesso che cos'è un bibanda se non sbaglio? Sì, è un bibanda. Bene, c'è scritto sopra, dove vende? E adesso è 27.009. Sai che c'è un telefonino? No, che telefonino? E beh, dove vende? Ma c'è una differenza però fra dual band e bibanda, perché il dual band ti mette nella condizione, se non sbaglio, di poter ascoltare da una parte e modulare sull'altra, cioè in U e UHF, mentre invece l'altro no, puoi selezionare una cosa per volta. Certo, e come hai detto tu? C'è Claudio, dual band e bibanda, c'è la bibanda. No, praticamente puoi ricevere in due frequenze contemporaneamente, da 140 sì a 430. Appaglierò, già il 27-25 è quello lì, che è ottimo, ma ti ripeto, se lo vuoi portatile spendi neanche 30 euro adesso. Se voglio portatile, no, ma vuoi tu? Appaglierò, si chiamano Pixiund, oppure comunque ce ne sono 2000 di marche cinesi che stanno offrendo questi portatili che non contano niente, davvero, e vanno anche bene. Si chiamano, dove devo andare? Su internet? Esatto, allora aspetta un attimino che te lo cerco. A parte che c'è quelli, il fratellino più grande, che è buono, si chiama Voxum, si scrive WOUXUN. Voxum. Ma qua c'è un altro, della Kenwood, sembra nuovo, in foto. Però questo qua è un dual band. Sì, dual band. Infatti sono due frequenze, 145 e 431 e virgola. Come quello c'ha Claudio, cioè, non è della Kenwood, quello di Claudio. Però questo qua tira due frequenze, contemporaneamente. Vagava, un attimino di QRX per me, riprendete un attimo. Com'è questo? Doppio modulo? Così Massimiliano. Cosa? Questo tuo doppio modulatore? Comprendo di tutto, com'è? Se hanno i brutto e quelle così non ne hanno doppio modulatore. No, non ne hanno bisogno allora. Cavagava, non ne hanno bisogno, bravo. Vabbè. No, c'è bene, bella. compressa, bella compatta, va bene, bella Massimiliano. Ma il tuo no, non mi piace, non so da quando l'hai toccato, non so da che hai fatto, o gli hai cambiato il microfono, no. All'inizio girava benissimo, poi non mi piace il rap. Va bene, sì, però questo gira bene invece, si sente proprio l'elicottero dei carabinieri sotto. Ma l'ho riportato come era prima, quello l'ha capito. L'ho riportato come era prima, cambi. Chi è? Sì, avanti, buongiorno. Buongiorno, ben ascoltato. Buongiorno Luca, buongiorno, non so chi è tu. Ah, chi è? Bobone Virillo. Noi, Bobone, sperando che mi occupi con le coordinate. Buongiorno e buona domenica anche a te, guarda. Ciao Luca. Thank you. controllo. 8, sì, la radio è 4, preoccupa, sto facendo la radio di una macchina, perché devo scoprire abbastanza grande, perché c'è una vita da dire, è sempre la che non mi va. Ma ti la parecchio bene a carantella, vera che ci fotte come una volta. Già lo so, già lo so. Ah, ti rucca. Ehi, ehi, vedi che è campana. Poi io faccio un attimo di bianco, c'è come. Va bene. Ritmi a te, Antonio. K9, sono in radioascolto e sto finendo di fare una cosa al computer. Comunque mi hai sentito anche il capitano, dai, 7-3, mi hai sentito per la primiera. Riprenditela, aiuta. No, anzi, vuol dire a quella là, se lo vuole, quel mobile che l'ho sistemato, tutto a posto. Ma lo... grazie di avermelo ricordato, perché lo dovevo sentire stamattina e sicuramente me lo sarei dimenticato, dai. Glielo chiedo e ti faccio sapere questo pomeriggio stesso. Gappa, gappa. Che fra l'altro voleva un'antenna simile a quella che ho preso io, però gliel'avevo già detto che ne avevi solamente una. Cavala, non fa niente. C'è quella lì, c'è queste due, ce ne sono di Mobicon, uguali, da vitto. Le voglio vendere due. Sempre in 40? Come? 40, perché io da quello cui sto trasmettendo adesso è un 45, tu c'hai 40. Sì, io c'ho 40, di 40 con 400 canali. Però so che questo è così, però quello lì si può espandere, cioè gli puoi dare più potenza, questo qua invece non si può fare nessuna modifica. Perché questo ho già direttamente il bucciantino, l'HI, bassa potenza e alta potenza, capito, di suo già, cioè fino alle 19.69, quindi va da 5 a 13-15 watt modulati. Kappa, dai, ti faccio sapere. Sì, dai, un secondo di bianco per me che mi allontano un attimo, riprendi Luca. Martina, io devo assentare, devo subito, dai, te devo fare una cosettina anch'io. Comunque Luca, è una bomba questo 7009, lo stavo guardando, ne vale la pena prenderlo. Lo so, solo che adesso vediamo, non è problema di soldi, eh. Oggi ci sono e domani non ci sono. Fidati un portatile, voi lo fai prima. Avanti, capitano. Senti, moduli su una parte o moduli dall'altra, cosa te ne affu- se la facciamo un blogger. Ok. Cioè, quello mi guarda apparecchiato dei cinesi, vai. Ma guarda, c'è Ovoxung che si scrive, te l'ho detto, whisky, Ontario, uniform, X-rays, uniform e Napoli, Ovoxung, oppure Pixung, ma ne trovi, una volta che ne trovi uno poi vai nel negozio e ti dà tutta la lista di queste cineserie, che sono tutte uguali e costano, arrivano a costare tipo 35 euro. Ah, Ovoxung. Ovoxung. Ovoxung non c'è, non esiste. Ah, eccoli qua. Ovoxung, non Xung, Sun. La G non c'è. Aspetta, Xung. Allora, qua c'è 100 euro. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Full HQ a 5 watt. Cuffia in versione 2011. Ecco qua. La volta la mano è la seconda mano, non mi interessa. Aspetta, lo cerchiamo. Vuxun VHF VHF VHF no, fanculo VHF. Vediamo un po' se me li dà. 150 euro, Anto. Un attimino che è una bassa. Vai. Poi c'è un altro, 60 euro, ma è in cosa, in offerta. Santo, mi buchi tu. Ma cosa? Vabbè già. Ui. Me ne ha combinato una, prima mi ha sfasciato la scarpiera. Ha aperto il coso della scarpiera, si è rifrattato un po'. Ecco, ok. Poi ce ne avevo 100 euro, sempre portatile, compra subito. 98 euro, compra subito. 149 euro, compra subito. 149, 104, 98, 98. 139. 109 euro, Vuxung, Vatband, UHF, UHF, 200, 12 euro, l'antenna, 130, come ne comprare un veicolare, faccio prima, 129, no. Radio, Vatband, Vuxung, UHF, 89 euro, compro su più 20 euro. Tanto vai a prendere un veicolare. Aspetta, aspetta che sono ritornato, adesso ti dico cosa devi prendere. Ci sono questi Pixung, però non mi ricordo come si scrive. Aspetta, lo vedo, poi te lo dico. No, dappi messaggio prima del nome esatto, stai lì a che non sai neanche pronunciare. Cosa fa? Solo voi. sono U e V, è un dual band. Poi ce ne sono anche, aspetta se li trovo, ma ce ne avevo trovato, un sito dove li vendevano a 30 euro, ma una miseria, però erano 2 watt. Chiaramente sono tutte cose che radioamatoriali, quindi noi non le possiamo usare. Allora, tu qua ce n'è uno. Ma sono c'è aspetta. UVX la band 144, c'è un 65 euro ancora questo comportarti tanto. Grazie Italiano Mofeng. Mofeng. Questo è un Yaesu. Dual band, ci sono le frequenze. E poi 65 euro compravo subito. Aspetta che ne ho un altro, anche adesso ti dico le altre marche, se mi si apre la pagina di internet. Forse ho ritrovato quel sito dove ti dicevo che li davano a poco, c'erano 2 miliardi di marche, dicevo. Allora, addirittura c'è questo qua che è un tri-band, no, non c'entra niente, aspetta. Le band, poi te lo dico. Aspetta, le fai l'altra foto di Aesu, UX, UVX4, dual band, 144, 430 mega, stile Aesu, UX3, garanzia Italia, non Mofeng. 65 euro compravo subito, ma se clicco su compravo subito, praticamente mi dice che devo registrare. Però siccome ho già registrato, l'altra forse prima l'hanno fottuta, l'ho dovuta bloccare perché mi hanno fregato i soldi. Ma non che questo qua mi fa, c'è un pagamento, vediamo un po', ma che posso fare, pagamento vai alla consegna, è bellino, piccolino, non lo so, adesso vediamo, ora. Come siete, carta di credito, no, carta di credito, è molto comodo, la mette in tasca, e la mano sulla vostra mano, toni, va bene, doppia frequenza, va bene, è forte, va bene, radio, è bellino, allora, piccolino, batteria a litio da 1500 mAh, carica batteria, aspetta, lancetto, cuffia con microfono, tanto PTT, manuale inglese. Dopo la faccio. Come ricezione sentiva un bel forte, prendeva con l'antennino da tutte le parti. Poi aspetta un attimo, Yaesu FT, Yaesu FT 190 RTX veicolare 157 euro, nuovo però questo qua, è nuovo. Qualche negozio, sempre seconda mano. È bellino, piccolo ma bellino. 157 euro. Scusa voi, un portatile o un veicolare? Non aggiungo un peso ancora. Ma tu, a questo punto come è più un veicolare? Voi c'è un problema di batteria, lo lasciate attaccato, già mica lo porterà appresso. Scusa, Yaesu FT 1900, scrivilo. Cosa faccio qua? Compro subito 157 euro. Ma non posso, se io clicco lì poi devo costretto a comprarlo e poi non so come fare il pagamento. Sì, ma controllati questi tipi di pagamento che ci sono, che tipi di pagamento ci sono e poi vedi se ti conviene o no. Allora, tipi di pagamento, bonifico bancario PayPal, paga con PayPal, protezione integrale, condizioni, cambia idea sulla prepagata. Aspetta, io cosa dice questo scemo? Sarebbe messo il numero di telefono, la richiamata, questo qua, mi siete messo d'accordo, contattateci. Allora, vediamo un po'. Tutte le informazioni le spedite nel SDA. Non c'è niente, non c'è il numero di telefono. Ah, ecco. C'è il numero di telefono. Lascia vedere. Io ho aperto questo qua, Media Globe. Fusco Sabrina Fusco, Piazza Matteotti, Capuso Mari, partita IVA, c'è il telefono, 080, qua te lo tengo, di cosa, no? Vediamo un po', è bellino, non avrà parecchietto, lo devo sentire a Claudio, 55 watt da, è buono. Allora, la quanta potenza adesso il watt 25, allora, 25, 10 e 5 watt, tutte le frequenze. No, vabbè, non tutte, in in UHF, poi il pure da 55. Ma cosa è? Ricevitore o trasmettitore? Che trasmettitore UHF già? No, no, io, ma io mi ricordo che tu c'avevi un portatile giapponese, se non ricordo male te l'aveva venduto la buona anima di coso, di Tore, mi ricordo che ce l'avevi, ma non ce l'hai più. No, aspetta, no, questo è un VHF vincolare, no, non ricordo, no. No, è un VHF solo questo qua. No, niente da fare. Pensa proprio, guarda. Ma non l'ho detto bene. Ma qua dice 25. Effettivamente no. 140 per 40 mm, potenza. Ma sono spiegati male questi qua. No, non mi interessa, si occupo qui di abbarli, va. Già chiamo diversamente un'altra persona, che c'è un numero e vediamo un po' se procura qualcosa. Rosino! Ma aspetta, li sto guardando un attimino, poi se vuoi il 2725, cercate un 2725, li trovi a poco prezzo. Fabrizio ce l'aveva comprato, lo stesso sta compromendo. Vado al nuovo. Cosenza, aspetta che te lo cerco io, dai. E qua sul 5 e 7. No, la devo subito, il telefono suona. Dai, eh? Va bene? Prode. Dai, Roggero. Cercando da comprare, stai. Guardando le cose stravaganti. Un giorno ti faccio vedere un sito brutto, se vuoi. E sarebbe questo sito? Chiama www.mondonarco.com. Minchia, si vede la voce, siccome devi sapere che in Messico ci sono due bande di cosa, come si chiama, di come si chiamano quelli che coltivano la cocaina? Spacciatore. Ma negativo, narcotrafficanti, ti ho detto mondo narco, non mi è venuto. Comunque ci sono queste due bande che sono quelli degli, i primi si chiamano gli Z, i secondi quelli di Cartier del Golfo, e se ne fanno di tutti i colori l'uno con l'altro per cercare di dominare il mercato, capito? Mettono dei filmati in rete che sono micidiali, davvero, non pensavo che l'uomo potesse arrivare a una cattiveria del genere. Aspetta che me lo scrivo, che ci vuole andare a vedere questo sito qua. Aspetta che sono la penna. Dico solamente che forse se l'ha visto Luca mi uno, dove in breve c'è uno che gli stacca la testa con la motosega. Aspetta, roba. No, vado via. Da. Ci chiama. www.mondonarco, tutto attaccato, mondonarco.com. Ci vado quando sono un po' tranquillo che non c'è il bambino. Io ti dico solamente che un amico, l'ho fatto vedere a un amico che stava facendo lo spavaldo, come ho visto non ne stavano uscendo gli occhi. Sì, vabbè. Sì, non mi stupo di sito, per carità di Dio. No, vabbè. Sono andato 2 o 3 volte, loro fanno vedere tutti gli istituti stradali, la gente tutta quanta schiacciata, gente che si spara, eccetera eccetera. Qual è? Aspetta, sto cercando di ricordarmi come si chiama, non lo ricordo più. No, quello lì è acqua di rosa in confronto. Sì, non è acqua di rosa, adesso abiti che fanno vedere le foto con le facce deformate, gente schiacciata, gente che vedi che gli ha tagliato la testa. Se vedi questo qua negli altri luci, te ne sto dicendo, è eccessivo proprio, io non so come possano fare a tenere in rete cose del genere, però è davvero estremo. Buah. Filmati proprio fanno vedere, ho fotografie. No, filmati. La fanno, si catturano gli uni con gli altri, dopodiché per far capire quanto sono cattivi agli altri, ammazzano i tipi e si mandano i video, capito? Beh, qua è tipo un giornale. Bale a comandanza della polizia a Linear Nuevo León. Aspettate, dico io dove devi andare. Punto. Aspetta, te lo dico subito, ti faccio fare il percorso. Allora, ci sei. Prendo il computer che è una moto zappa, questo computer non serve a niente. Si vedono alcune fotografie, aspetta, qua forse. No, registrati, no? No, aspetta, te lo dico io. Bisogna registrare, se tu guardi nella parte alta c'è scritto a un certo punto video, si abbassa una tendina oppure clicchi direttamente e ti manda sulla pagina dei video. Videos. Davos, vai lì. Città caricata, numero di pubblicità, soggiorno per due coppie in Sardegna, Cagliari, eccetera, eccetera. Però via. Raga, aspetta, che non mi si sta a prendere il computer, non so perché, la pagina. Allora, io ho messo videos e mi ha dato la pubblicità. Soggiorno in Sardegna a 99 euro. Per coppia, per due minuti in Sardegna con drink e bottiglia di benvenuto, colazione, cena di 4 portate a 99 euro invece che di 277. Scoppi, suede, dintorni di Cagliari. Che sito hai messo, scusa, Allora, Mundo Nuevo, Narco. Esatto, entra su lista video, liste videos. Esatto, su lista videos. Ci sono belli facciolosi. Bravissimo, adesso fai così, guarda. Te lo dico in diretta. Allora, scendi un pochettino. Aspetta che vado a caricando le palle. Allora, video esclusivo, risposta del cartel del Golfo a Los Zetas. Allora, metti questo. Allora, aspetta un attimino, ce n'è una che è più, aspetta un attimo. Vabbè, mettiamo questo video esclusivo che mi sta... Aspetta, allora guarda, lo vedi, sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, c'è scritto video del Capitan con una Sierra dos Sicarios del capo Gumas. Aspetta, lista video. Video del Capitan con una Sierra e ti dice tutto il resto. Aspetta, che sta scorrendo. Decapita con una ZI, luego de Sicaria decapita, quello lì. Di Roger, non l'hai detto bene, però decapita con una Sierra ad un Sicario dello capo. Di Sierra non ne parla, ma c'è quasi tutto. Moyer Sicaria decapita un ZI, luego lo discursano Y le a cara del piede la cara. Praticamente gli ha tagliato il piede. No, la cara e la faccia. In breve cosa fanno? Prima gli tagliano la testa e poi gli scarnificano la faccia. Però vai su questo, decapitano con una sierra. Scendi un po' più su o sali un po' più in giù, no? Che? Il numero 9? Il 9, guarda, c'è il primo, ci leggi, video esclusivo. Vedete tutte, sono due righe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al 9, proprio c'è scritto decapitano con una sierra. Sì, l'ho visto. E su quello. Ti apre la pagina adesso, scendi un attimino. E c'è scritto, vedi la faccia dei due, però c'è scritto in una specie di barretta verde, segnato di verde, video original. Scritto ver il video online original. Roma, partendo. Roger, guarda che lo spettacolo inizia verso il terzo minuto, una cosa del genere, una cosa da uscita negli occhi. Foto che si vede, l'hai vista? Sesto minuto. A un certo punto gli si inceppa anche la motosega. Mi stavo facendo parlare adesso, beh. Punto 3 e 9, vai al minuto 3 e 9. Pinuccetto. Quella figura di merda. gli ho fatto, ma lo sapevo, lo so di babbo, e lui perché, come mai lo sai? Gli ho detto, perché si vede il cipiglio, cioè la forma, la postura, e ho recuperato, quindi arrampico, si sentiva il rumore delle unghie mentre mi arrampicavo ai vetri. E lui babbo che faccia fa? No, poi alla fine si è messo a ridere, però che bella figura di merda. Io la figura di merda più cosa che ho fatto una volta che è venuta questa amica a casa, questa amica qua aveva l'abitudine di farsi i baffi col rasoio, quindi in effetti si vedeva un po', capito? E gli spuntavano appena appena da sotto al naso dei peluzzi. Manuela, che era una bambina, ma se i bambini sono molto, diciamo, guardano molto queste cose, no? C'hanno molta ottica in certe cose. E praticamente gli fa, Franca, sì? Lo sai qual è il colmo per un gatto? E di no, avere i baffi come i tuoi. Sembrava consigliato. Infatti, ma i bambini, guarda, hanno quella spontaneità, quella che si chiama la cattiveria dei bambini, perché non lo fanno per cattiveria, però dicono delle cose micidiali, capito? Assurdo. Io ho assistito a una scena di una bambina, gli si è avvicinato questa persona adulta, gli aveva chiesto, ah, te la posso dare un bacio? E questa bambina se la guardate e gli ha fatto, no, perché ti puzza l'alito. E invece ieri ho visto un altro, ho detto non te lo do perché sei brutta. Infatti, un'altra volta in metropolitana come si dice, a Milano, questa bambina, lo stesso che c'erano questi quattro senegalesi, comunque persone di colore, e la bambina gli chiedeva alla madre insistentemente come mai quelli qua fossero neri. E dice, perché i signori vengono dall'Africa, gli ha detto, e la bambina gli ha risposto, ha detto, che schifo, minchia, la madre ne aveva la faccia intera, gli avrà fatto chiedere scusa 2000 volte, e questi qua erano mortificati più della bambina. Perché sono spontanei i bambini, non è che ci pensano due volte a dirti la cosa, come la vedono te la dicono, non ci pensano, non lo fanno per male, però tante volte ti segnano quando ti dicono la cosa, perché hai detto da un innocente è proprio una cosa veritiera. Ma non è quello, scusa, è una vita che quando eravamo bambini ci dicevano mica chiamo l'uomo nero, mica viene l'uomo nero, e da voi si lamentano se siamo razzisti. Vabbè, sì, è vero, è vero, cucicacca, l'uomo nero. Capito, è nata la cosa alla fine. E vabbè, ma io che vado a vestirmi, dai, che sono qua cincischiando dalle 7 sono. E no, io mi sono alzato presto, mi ho detto, ma se porchetta a fare, diciamo che adesso ci vorranno solo 5-6 minuti per finire di cucinare. Adesso vado a prendere a loro che stanno tornando, e quindi Manuel era a Milano. L'ho immaginato che lui sia accompagnato lì. Chi è che c'era in sottomodulazione? Ciao Anto, ciao ciao. Poi Groba, capri due, ciao. No, è andato a fare un provino di canto a Milano. Dito ciao Gianni, ben sentito, me l'ha ascoltato, buona domenica. Io volevo chiedere un attimino di quel Rix che mi sto preparando, mi sto vestendo, quantomeno, dai, ci sentiamo un attimo, vi sto ascoltando, quindi riprendete, riprendo io fra 5 minuti. Ehi, riprendi Gianni con un buongiorno. Beh, questo Puma è arrivato. Ok, ciao Gianni, buongiorno, buona domenica, anche a te grosse, comunque ricchi, ci siamo qui. Sì, è arrivato, ce l'ho qualche girato, l'ho apprato, sì. Uri allora, auguri, l'abbiamo messo molto, sì. E anche troppo, sono le pratiche in corso, perché poi devo spedirle in regione per rimatricolarlo con le nostre targhe, perché i mezzi pubblici vanno sostituiti le targhe, sì. 60 posti già, frigorifero, tipo a bordo, di tutti, tutto ok. 3 metri della lunga. E chi lo guida? Tutti e due, il mio e il Puma già. Ah, capaga, poi almeno c'hai il secondo lavoro, che poco mi dice. solo che due cose non si possono fare già. Se quello se ne va a fare i concerti, se va a suonare, non può guidare il Puma, perché le domeniche solitamente sono fatte per girare, dai. Diciamolo qui io, ve l'ho detto, dobbiamo andare a suonare già a Roma, a Provo, diciamo, padronizzare, devo far padronizzare, capito, già le ho fatto per trovare, perché è un bel lungo, stare attento alla coda, come entrare, come non già guida, però, capito, nei posti stretti già, si trova macchine parcheggiate in un coso, cioè quelle cose lì le devo insegnare già, e poi diciamo che per il resto va tutto bene. Il computer ce l'hai riacceso? No, acceso no, ma dovrei accendere. Guarda nel sito di Ottavio, lo sai il sito? No, aspetta che lo accendo, così vado a vedere. E il pullman? Come? Il pullman c'è. Pullman c'è adesso. Non ha fatto questo sito che non lo sapevo. Ma cosa suo? Le mail, le cose delle mail mi sembra che non sono il sito, come è fatto già. Il coso delle mail, diciamo, sono le fotografie, non so, su Facebook, non so, comunque le foto ci sono, le ho in Facebook, non so dove lui o non le ho internet, non so dove, però c'ha, hai capito, come si chiama, fai, lo sai le mail di Ottavio? Non lo so, allora aspetta un attimino che lo cerchiamo, se riesco, se mi fa vedere le foto lo vedo lo stesso, se no bisogna che richiedere amicizia, se no non le vedo, capito? E quello è il problema. Cercalo come Ottavio, non so come è messo, comunque c'è. Cazzarola. Prima ammetto che era un sito, se è un sito c'è l'indirizzo, ci va tranquilli, ma così vai e cercalo. Magari Manuela ce l'ha, perché con Manuela se l'hanno scambiato. Se non vuoi il sito, come si chiama, delle mail, allora attenta a quello che ti dico, carta alfa, capito, carta alfa, poi è chiocciola alice.it. Kappa, aspetta un attimo, senza nulla le mail adesso, aspetta un attimo, lo cerco come Ottavio Carra, vediamo un pochettino se me lo dà. Andando stiamo, aspetta. L'ho visto, l'ho visto il punto. Bello, aspetta. 9 foto ci sono, aspetta che me lo guardo bene, dentro è tutto celeste, bellino, non è male, dai, è un colore, c'è scritto carta travel, così è. Carta travel, prima è intentato a me già, perché mi è dovuto fare, non c'è quella, diciamo, che licenza che ho io, capito, lì ci vuole un esame grosso, quindi... Ed è stato per quello già, sono io, diciamo, il gestore dell'impresa di trasporto, sono sempre delle pratiche, un sacco di soldi già riportato, perché lo sto aspettando adesso con le sezioni a REN, perché poi devo mandare i documenti alla regione per avere il titolo per immatricolare e poi iniziamo il tutto. Ok, già, e cosa vuoi fare? Me l'hai detto tu, se devi rischiare. E io te l'ho detto, chi non rischia non rusica. E dove l'hai parcheggiato il Puma? In qualche piazza? C'è una casa di campo, sotto le scuole, dove metto le scuole a bus. Ah, cara gara. Cioè va bene, già va bene. Colore oro, dai. Non colore oro, no? Oro, colore oro. Qualche correttina gliela devo far fare. Le serie già, ma quello già si fa, però il motore l'ho provato, funziona bene, gli ho detto che i mesi vogliono manutenzione già, vogliono manutenzione, lì non è a fare, quando ci prima di partire controllare tutto, le sto facendo studiare tutto il manuale di manutenzione dei mesi, come si disaria la condensa, come si cambiano i filtri, tutte queste cose già, hai capito, dovrebbe sapere, perché se no se entra in officina sono colpi grossi. Lo so. Auguri, dai, già, speriamo bene che la cosa vada bene in porto, perché io ti auguro di non essertene pentito e di fare un bel dinamico. Sì, ti ringrazio, già hai capito, diciamo, il primo è pagato, non devo niente a nessuno, è stato l'altro, e però diciamo, gli ho detto che se a te tocca tenerlo, diventa passivo, diventa un giro di roba fiscale in mezzo, hai capito, e gli ho detto, bisogna partire col piede giusto, diciamo. Tutto lì e oggi non c'è Ottavio Iglesias, è andato a una gita con una comitiva del paese, io non ci sono andato già, cioè, ci ho fatto il carabiniere e non ci voglio scendere, capito, così, perché poi me ne vengo di malumore, se non credo Rubio ci parlo, e quindi niente, perché c'è anche domani la riunione del Fiat Ducato, di uno scuola, capito, devo registrare i sedili, detto che me li ha già rifatti, me le alcuni, quindi ho preferito rimanere a casa, c'è anche la giornata 9 delle migliori, oggi siamo qui. Ah, vaga, vai a portare, non ci vai. Anche lì c'è da andare, non sai che mi sono dimenticato già. Me ne sono dimenticato, mangiavo una cosa dell'albero, un po' mettendo a posto una cassetta di attrezzi, lampadine che ho a 24, questa roba, perché non deve mancare niente dentro il coso, già c'è tutti i ricambi, già cinghie dentro, filtri, e allora non si deve, e soprattutto dobbiamo rilevare una presa di corrente nel vano motore, che ci sono le lampadine però non illuminano, a illuminare il motore di notte, non si c'era qualche casino, se c'è da cambiare qualche cosa ci deve essere la luce, poi devo farmi fare una barra di traino, cioè per in caso di guasto per trainarlo, se non vi capito, queste cose me le prendo prima per evitare, perché se si guasterebbe, capito, con un camion, con una cosa lo trainano, però bisogna avere la barra, e quindi quella la devo tutti i costi avere. E la barra di ferro, la campana ci vuole, la campana non ce l'ha. Sì, c'ha tutto, già c'ha tutto, hai capito? No, poi deve essere controllato, io ricaldiamo, adesso anche una presa per dal compressore, però lo faccio fare qui, c'è una cucina specializzata degli impianti frenati, da lì ricaldiamo una presa d'aria per attaccare la manichetta per pompare le gomme, già, perché serve, capita una cosa, se la gomma riusciamo a raddrizzarla fino a destinazione a un collo vicino, quella roba dell'aria la deve avere per pomparla noi se succede qualcosa, quella si può ricambiare dal, come si chiama, dal compressore. Gianni, ti devo lasciare che devo andare in aeroporto, mi stanno a prendere la Manuela, che è da Milano, e devo andare a prendere in aeroporto adesso. È andato a fare una prova, diciamo un recital a Milano in una televisione conosciuta. Adesso speriamo bene e gli diano un buon risultato. Speriamo bene davvero, se mi riuniamo lui, sì, bisogna che escano per farsi conoscere, già hai capito, se no qui, se siamo chiusi dentro casa, come lo devo che faccio io, no, io ho la mia età, ma lì è giovane, ed è meglio che esca, no, Fabio c'è un po' di serate, però quelle di, ho detto non spendere più gli strumenti, mettiamo un fondo per il mezzo, perché quello dobbiamo comprare un altro, se è fatto un po' bene già ne comprerò anche un altro, uno per uno, e troviamo anche un po' del terreno, perché rifarò più una specie di parco macchine, perché poi a tenerne due in strada non va più bene. Bene, già, ti saluto, mi saluti a Manuela, mi saluti la tua 50, a Marcolino, e io faccio QRT, faccio, tanto non chiede nessuno, saluto Antonio Grote, se in ascolto su questo canale, ancora tutti gli altri amici, io faccio il QRT, subito ora di pranzo, e quindi, per il momento. mattina, verso mezzogiorno e un quarto, io sto prendendo la macchina per partire. Verso mezzogiorno e un quarto ci sono. Se mi fai compagnia, se non c'hai nulla da fare, mi fai compagnia così, dai. Ciao Gianni Capri 2, ciao Gianni doppio rombo, una carica, ci sentiamo nel prossimo, io sto uscendo, dai. Ciao ciao. Ciao, ci sentiamo. Ho capito già, se vuoi io verso quell'ora vado lì a prendere. Sì. Ah, l'ultima lo chiamo anche comunque. Non te l'ho messa l'ultima già, che mi l'ho appiccato nel coso, lo so, le scuole in alto, una capota. Lo sai che c'ha l'antenna del baracchino, c'ha nel coso, un pezzo dell'antenna del baracchino, il fulma. Davvero? Ma glielo metti, sicuramente glielo devi mettere lì, perché qualsiasi cosa non prende il telefono, almeno il baracchino ce l'hai. Infatti, non devo controllare anche il primo, questo che metti in moto il primo. No, c'è il televisore a bordo, c'è il coso, il videoregistratore, ma quello lo faccio nel DVD, però lo devo fare adesso, perché se no già mi è arrivato tempo fa, siccome sono stato anche all'estero in queste cose, se c'è il televisore di fuma costa 270 euro all'anno, poi più di 50 posti, quindi ho fatto il momento lei va salve, quando ingraniamo la roba poi fa un abbonamento, se no per più vale sì, io il baracchino già lo metto. Quello che non chiedi molto spazio, metterò la lancetta un po' da qualche parte e poi speriamo bene che Dio mi assista già. Ok, allora lascio il tuo richiedi, fai pure. Ti do la mia benedizione già. Vabbè dai, io vado a cambiarmi che poi fra poco devo partire. Sentiamo già. Sì, sono qui, ciao. Ora, 1, 2, 3, ora. Ehi, Daniele, beh, tutto bene? Gava, dammi un controllo già, modulazione, com'è? È un po' bassina, non è molto forte, ma il segnale è buono, va. Segnale no, io sono in Zambaldella e macchina, se ti ascolto bene, va. La modulazione non è super amplificata, ma è tranquilla. Gava. Guarda adesso se è cambiato qualcosa già. Adesso è dal giorno alla notte. È aumentata? Aspetta. E adesso? Adesso ancora di più. Beh, adesso sulla buona strada, aspetta, dimmi. Guarda adesso, ora la cipolla, com'è? Adesso non è forte, già va bene. Cosa stai toccando? Felice? Gava, questo è 4,90. Fammi 4,90 di che cosa? Della Magnum? No, della Intec già, il 4,90 Plus. Raga, ma non va bene, io sto scendendo al ghetto, sto andando all'aeroporto. Andavè. Gava. Ora Daniele, te mi conta già, c'è un giorno. Già, aspetta, Dano, t'ha fatto. E che vuole entrare, avanti. Gianni, ci sei? Ehi. C'è qualcosa adesso portante qua. Ehi, vabbè, lo può fare solo quando sono in macchina. Però ti tappava. Sì, lo so, perché qua vicino, capito, 9:30 e se ho sfortuna sono vicino a casa sua. Cava, dove ti trovi già adesso? Adesso sto andando verso la 131, eh. Ah, cava, già va bene. E qui non ti racconto, di che sono a spasso. Come sei a spasso? Non stavo volando. Attivo già. Sei andato? Eia. Dov'è? Un casino era già. Già, quando ci vediamo già te lo racconto. Vabbè già bene o male, cerca che già troverai qualche cosa, tu l'autista lo sai fare, o qua o là, cosa ti nascondi. Infatti dai, no, già mi sto muovendo dai, e vediamo un po'. E anche in quell'ambito dove paga, non ci hanno bisogno. Ehi, penso sono tornato alla misericordia già. Ho capito, vabbè. qui ti trovavi bene, c'avevi il tuo ambiente. Vado da un'altra parte, vabbè, sono tornato lì. Sì, vabbè, ma se trovi uno che ti paga, cioè volontariato lo puoi fare, però se ti trovi, tu hai bisogno anche di lavoro, quindi se trovi uno e l'altro insieme, mi... trovando tutti e due sarebbe stato ancora meglio, vediamo se riusciamo a fare. Piano piano già si trova, non disperare, anche se non sono tempi buoni, la verità è questa, i tempi non sono tanto buoni. Sai cosa è conoscente, bisogna avere adesso, se è conoscente qualcosina già la trovi. Sì, infatti, ma sempre è stato così, non solo adesso, quando c'è conoscente trovi lavori anche buoni. Ma adesso ancora di più mi sono accorto già. Adesso sta peggiorando. Poi che mondo andremo a finire, per carità, non tanto per noi quanto per i nostri figli. Speriamo bene, dai, che qualcosa cambi. Speriamo che con queste votazioni ci cambia un po' di roba. Speriamo, iniziamo da questa a vedere. Quando capiscono che il potere è anche del popolo, allora cominceranno a passare la cresta a questi stronzi. E allora, per carità, via. Adesso sto quasi svincolato per andare verso Alghero. Cavolo, l'hai fatto a camionare? No, ci ho passato dalla 131, poi ho fatto vicino a Città Mercato, sono uscito fuori da, diciamo, da invece di andare verso Bologna, sono andato verso Alghero, verso, e poi ho svincolato Alghero. Ho compreso. Chiara. Del tuo bolide, parlamene, che mi è piaciuta. Bella, no già. Nappa, bellina, molto bellina. È piccolina, però per un ragazzo è bella. Va bene. Già, si comporta bene. Prossima volta? Fai 10, 11, quando è troppo. Tu pensa che io avevo 5,95 giannini, la 500, truccata, 5,95 giannini, e mi faceva il 9 al litro, in salita però faceva 130. A volte ho sorpassato tra la portatrice della salita dei marini, questa Alfa Romeo, che si stava truppando il numero 1, prendo io, la sorpasso, che mi ha guardato incantato. Però che si consumava, ci aveva la testata cromata e ho praticamente bruciato la guarnizione della testata, sono andato a cambiarla, ha detto che voleva abbassata la testata, ma siccome era cromata non si poteva fare, allora voleva sostituita completamente la testata, ci voleva un bel di soldi. Quella Giannini costava un bel, e ho preferito cambiarmi la macchina, l'ho lasciata a mio malincuore, l'ho passata dietro, bella, l'ho lasciata a Siranos, e mi sono preso un 127 all'ora, ma che quello già camminava, spicchiava forte. Ma che quello ho preparato o no? Quello me lo sono preparato io, però, me l'ho fatto fare io, come se il volantino, le ruote con i cerchi, poi gli ho fatto preparare anche il motore. Camminava, che se c'è uno spunto, ui. No, questa è la già la soddisfazione, già schicchia anche questa. Quella conoscete i freni a muro. Già? Sì? Quella lì aveva i freni a muro. Mi ha rovinata, questa qua mi è uscita dallo stop da via Farina e ho preso il muro in pieno. Ah, è duallare, va. E siccome non ho preso a lei, mi hanno fatto fare revisione di patente in più, mi ho dovuto comprare la macchina nuova io. Erano già due. Guarda, una sfiga col pesce. Vabbè. Ed è la colpa di quella non mi rovinare perché ho messo sotto da poco un bambino ancora all'ospedale. Le tengo la rovina, però mi fa la sicurezza. cose, siamo fatto l'occhiolino, cosa, ha fatto risultare come se lui non avesse nessuna colpa, che la colpa fosse tutta la mia. Sì, sì, ma hai saputo Luca sotto, Luca tu sei? Sotto, ma la testa è stata sopra, andata a votare. Bello. Come sei? Sì, a casa. E già dove sei tu? Io nella quattro corsie per Alghero, cambio. Già ne ho avuto tempo. E sta andando all'aeroporto, Luca, a prendere a Manuela, sta andando. No, no, no, andava, da. Ma andato sei a votare, Luca. Già fatto. Bravo, io vado stasera. Chi è questo bico avanti? Gara. Cosa dite a questo? Lu? Gianni? Che figa? Te mi ascolti? Gava già. Come ti arrivo con la zona, ecco? 9:15 sei, dai. Vado sempre bene, con questa antenna, ragazzi. Brava. Vabbò, dai, che io faccio un attimo di bianco, ci sentiamo più tardi se coincide.